Ma oggi firmiamo un accordo molto importante fra il Comune di Bologna e le organizzazioni sindacali CGIL, CISL, UIL e ASP Città di Bologna, volto alla semplificazione delle procedure per aiutare le persone migranti nel nostro territorio a sentirsi quanto più possibilmente quanto prima cittadini. Noi l'abbiamo detto anche con lo slogan che ha accompagnato la campagna sullo Ius Soli cittadino. Per noi le persone migranti che scelgono la nostra città, che arrivano alla nostra città, sono bolognesi sin dal primo giorno. Spesso e volentieri le politiche migratorie in questo paese sono politiche, sono pratiche, sono procedure che complicano la vita delle persone, che rendono molto difficile questo percorso di cittadinanza. Noi crediamo che sia giusto invece impegnarsi per semplificare queste procedure, per aiutare i cittadini a orientarsi anche rispetto ai servizi, verso le possibilità e per, questo è un altro obiettivo che abbiamo e che ci siamo dati tutti insieme, riuscire a accelerare anche i tempi di concessione e rinnovo dei permessi di soggiorno. Su questo la Questura di Bologna ha rafforzato il suo impegno negli ultimi mesi rispetto a delle performance che non erano, diciamo, particolarmente brillanti in passato e che stanno migliorando proprio intorno a questo impegno. Come Comune di Bologna abbiamo peraltro fatto un accordo con la Questura di Bologna per istituire un ufficio di relazioni col pubblico in Piazza Galileo che in pochi mesi, in un semestre, ha visto l'accesso di oltre 4.000 persone per avere informazioni sulle proprie pratiche di rinnovo di permesso di soggiorno. Questo ha aiutato, diciamo, ad avere informazioni, a orientarsi e a velocizzare queste pratiche. In questa strada, lungo questa strada, con CGIL, CISL, UIL e con ASP, che per noi, per il Comune di Bologna, gestisce tutto il sistema SAI, cioè il sistema dell'accoglienza e integrazione, che è la grande scelta di accoglienza che Bologna ha fatto già da diversi anni, intendiamo avere un tavolo permanente di confronto per capire come e quali azioni mettere in campo appunto per semplificare questi percorsi, per renderli più veloci, per renderli più umani e per rendere quindi la prospettiva della cittadinanza in senso pieno, in senso di poter avere i documenti, poter vivere la nostra città nella pienezza, una prospettiva possibile, più semplice possibile, più rapida possibile. Ieri 70 arrivati, oggi ne sono arrivati 37, alcune percentualmente rimangono a Bologna, ma quelli che poi insomma escono dai CAS perché non è stata accolta oppure perché è stata accolta la cosa, come vengono gestiti? Allora, Bologna per fortuna anche rispetto a questi arrivi, lo dicevo, ha un sistema collaudato di accoglienza, il sistema bolognese, il sistema SAI è il più grande d'Italia, 2200 posti SAI oltre ai posti CAS della prefettura, quindi c'è un impegno diretto del Comune di Bologna e questo ci consente di reggere l'urto e di avere la prospettiva di offrire un'accoglienza vera, un'accoglienza che si pone sin dal primo giorno il tema dell'integrazione. La cosa che ci stiamo ponendo e dentro la quale, dentro la prospettiva, si inserisce questo accordo con i sindacati è cosa succede il giorno dopo, come diciamo questi percorsi di accoglienza possano diventare veramente percorsi migratori di successo con una capacità di integrazione. Questo vuol dire occuparsi di lavoro, questo vuol dire occuparsi dei bisogni sociosanitari e quindi certamente questo vuol dire occuparsi dell'abitare delle persone quando escono dai sistemi di accoglienza e quindi ovviamente non solo io ma tutta la giunta, anche le diverse deleghe, di questo ci stiamo occupando, ovviamente in primis dando le risposte invece rispetto all'urgenza dell'accoglienza quando questo ci viene richiesto come in questo caso. Che percentuale avete avuto in più rispetto all'anno scorso? Ma ci sono ovviamente, non abbiamo un dato preciso, nonostante che Bologna ha un sistema, ha un portale internet che è Bologna Cares, che mappa puntualmente mese per mese le presenze nel nostro territorio, sia all'interno del sistema SAI sia all'interno del sistema CAS, quindi c'è un elemento informativo importante. Ovviamente i dati dei flussi sono sempre fluttuanti, ovviamente sappiamo che nella stagione invernale, nel periodo invernale, se è un, diciamo, queste presenze, questi arrivi tendono a diminuire, poi adesso, proprio quando ricomincia il periodo primaverile verso l'estate, ovviamente questi arrivi aumentano. Ovviamente da Bologna continuiamo a chiedere con forza un impegno dell'Europa e del nostro paese più forte per l'accoglienza di queste persone nel Mediterraneo, ma altrettanto noi facciamo la nostra parte fino in fondo, appunto garantendo un'accoglienza che non sia solo dignitosa, ma che sia appunto all'interno di una prospettiva di integrazione, di inclusione e di cittadinanza.